24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, cari ascoltatori, siamo alle 7:21 minuti in diretta, riprende la settimana di 24 mattino e siamo in diretta fino alle 9 con il nostro Alpino, là, il nostro Peter Bescapè in regia. Saluto anche Diego Rovelli, neo ingresso, eccolo qua, a 24 mattino ovviamente. E allora, di che parliamo oggi? Avremo Antonio Di Pietro ospite alle 8:20, parleremo di politica e di antipolitica, perché questo è il mantra che sta montando, l'antipolitica. E poi parleremo ancora di questo tema con in particolare i grillini, il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo, che sta avanzando, pare diventata la terza forza politica secondo alcuni sondaggi in vista delle amministrative. Di questo parleremo, insomma, dalle 8:20 in poi. Ora da cosa iniziamo? Beh, come al solito, dalla lettura dei quotidiani in edicola. Allora, intanto le aperture dei quotidiani in questo lunedì 16 aprile, il Sole 24 Ore, tasse e tariffe, 1.500 euro in più. Così l'edizione del lunedì, il mattone assorbe il 30% di rincari, è uno studio di quanto spingono sì, tasse e tariffe per le spese delle famiglie italiane. Una media di 1.500 euro in più, giusto come al solito per iniziare la settimana in dolcezza. E poi le aperture sul mercato del lavoro, la Repubblica, lavoro pronti alle modifiche, questo è il titolo d'apertura. Così il Messaggero, lavoro, modifiche in arrivo. Mentre l'attualità internazionale, con quello che è successo in Afghanistan, un attacco molto molto intenso da parte dei talebani e l'apertura di molti quotidiani, Corriere della Sera, prova di forza dei talebani, così il titolo di apertura. Per La Stampa invece, Kabul, la vendetta dei taleban, e il secolo XIX blitz a Kabul, la vendetta dei talebani. Mentre c'è un titolo shock in prima pagina del Giornale, è un'intercettazione shock che ieri era già stata resa nota dal secolo XIX e riguarda l'ex tesoriere della Lega Belsito. Mi sparo in bocca, questo è il titolo dell'intercettazione e il titolo di apertura del Giornale. Lo sfogo dell'ex tesoriere leghista Belsito dopo lo scandalo in Tanzania, mando una lettera e poi mi sparo in bocca. Allora, da che cosa vogliamo partire? Beh, abbiamo detto tasse, tasse, tasse, cari italiani, arriverà la nuova tassa. Se ne era già parlato, è una tassa che fa discutere non in Italia ma in tutto il mondo, pare che il governo italiano sia intenzionato a metterla. Bibite e merendine più leggere, il governo studia la tassa sul junk food. Il cibo spazzatura è al via, il piano anti-obesità, entro il 2014 meno zuccheri e grassi, ormai pare decisa la linea, e Repubblica oggi dedica due pagine a questo tema, pagina 22-23, la notizia finisce anche in prima pagina, racconta Michele Bocci, l'Italia tasserà il junk food, il cibo spazzatura ritenuto colpevole di obesità e problemi di salute di vario tipo in tutto il mondo. Si parte con la tassa sui superalcolici e poi i succhi e le bevande gassate. In totale si recupereranno circa 270 milioni di euro che saranno investiti per il rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie e per l'educazione alla salute a tavola. Mentre il piano, che coinvolge anche merendine, patatine, crackers e altro, questo piano invece prevede una strada diversa. In un secondo tempo si inizierà proprio con i superalcolici. Uno studio del Ministero prevede che cosa? Un prelievo di 50 euro ogni 100 litri, cioè mezzo euro al litro. In questo modo entreranno nelle casse circa 24 milioni di euro. Visto che in Italia si bevono 48 milioni di litri di gin, vodka, grappa, whisky, eccetera. E poi ci saranno le bevande analcoliche zuccherate, che comprendono un gran numero di prodotti, succhi di frutta, o i tè, le decine di bevande gassate. Qui il prelievo per litro sarà molto più basso, perché il consumo è altissimo di queste bevande, circa 3,5 miliardi di litri ogni anno, e allora la tassa prevista sarà di 7 euro e 16 centesimi ogni 100 litri, in pratica fanno 2 centesimi e mezzo per una lattina, e farà incassare allo Stato circa 245 milioni l'anno. Insomma, si vuole tassare il cibo spazzatura. C'è anche un'intervista al ministro della salute Balduzzi che dice: prima la salute, poi pensiamo alla cassa. Cioè l'obiettivo di questo provvedimento è prima pensare alla salute degli italiani e poi alla cassa, al denaro che si recupererà con queste tasse. Il primo segnale, racconta il ministro Balduzzi, riguarda la necessità di migliorare le abitudini alimentari. Dobbiamo mandare un messaggio ai consumatori, vogliamo farli risparmiare in termini di salute, cosa che poi si traduce in un risparmio anche per il sistema sanitario nazionale. Insomma, lo Stato che ci vuole guardare nel piatto, ci vuole insegnare l'educazione alimentare. È un tema, ripeto, dibattuto in tutto il mondo, negli Stati Uniti, dove i problemi di obesità sono anche più importanti che da noi. E si vuole insegnare una corretta alimentazione, e per questo arriva anche la tassa per sconsigliare e scoraggiare l'utilizzo di del junk food, il cosiddetto cibo spazzatura. Molto interessante come tema, non è escluso che lo tratteremo nei prossimi giorni. La seconda notizia da cui voglio partire prima della pubblicità riguarda la città di Milano, ma anche questo è un sintomo dell'Italia che cambia, e tutti i giornali infatti dedicano una pagina su questo tema. Leggo qualche titolo dal Giornale a pagina 17: a Milano gli U sono il doppio dei Brambilla, e dove per U si deve leggere HU. Insomma, avete già capito, i cognomi cinesi, il cognome più diffuso a Milano è il cognome U. Eccolo qui sul Quotidiano Nazionale: U scalza il Sciur Brambilla, è il secondo cognome di Milano. E ancora anche su Repubblica: Milano più signor U che Brambilla, così cambia la geografia dei cognomi. E il dato di fatto è questo, sono dati del comune, dunque dell'anagrafe. Oltre 3.694 residenti si chiamano U, cioè lago in mandarino, ma ci sono anche 1625 Chen, 1439 Zhu. Insomma, l'avanzata dei cinesi, tanto che La Stampa in prima pagina mette un commento di uno dei suoi giornalisti più celebri, che si chiama Michele Brambilla. Quando noi Sciur Brambilla eravamo Milano, per dare la mazzata finale, scrive Michele Brambilla, a una Lega già in difficoltà, il sindaco Pisapia, che è un comunista di origini meridionali, ha fatto diffondere i dati dell'anagrafe. Così si è scoperto che a Milano i Brambilla sono ormai solo 1536 al nono posto tra i cognomi, e quelli immigrati dei cinesi U sono 3694 secondi. Il primo, il cognome più diffuso, rimane Rossi. Sono cresciuto col complesso di portare un cognome un po' da macchietta. Quando arrivavamo al mare c'era sempre il bambino di Bologna che sfotteva. Sulla vecchia balilla s'avanza la famiglia Brambilla in vacanza. Ma tutto era ampiamente compensato dall'orgoglio che Brambilla voleva dire Milano. Ora l'avanzata degli U mi deprime. Una volta per identificare un milanese si diceva «Uè, Brambilla!» Non riesco a immaginare un improbabile «Uè, U!» Nel film Tre uomini e una gamba, il terrone Aldo, per far credere a Giovanni e Giacomo di essere milanese, dice di chiamarsi Brambilla Fumagalli. Ma ormai anche Fumagalli è in via d'estinzione, scivolato al 30° posto. In fondo anche noi Brambilla veniamo da fuori, arrivavamo dalla Bergamasca nel 1443, e forse furono i nostri antenati muratori a tirar su la grande muraglia. Comunque io sto lavorando al controsorpasso, avendo già fatto 5 figli. Dai Brambilla, sotto anche voi. Insomma, Brambilla è scivolato al 9° posto tra i cognomi. Il primo è U, il primo è Rossi, ma U avanza prepotentemente. Eccoci qua, allora, alle 7:36 minuti. Come detto, una delle notizie che è in apertura sui vari quotidiani è quella della riforma del mercato del lavoro. Ci sono ancora delle novità, ovviamente, per questo provvedimento che dovrà approdare alle Camere e deve essere ratificato. L'articolo 18, Confindustria chiede modifiche, questo è il titolo che troviamo a pagina 8 del Corriere della Sera. effettivamente pare un po' ricomposto anche per via di una telefonata, a seguito di una telefonata tra il Premier Monti e il Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, appare un po' ricomposto appunto lo strappo sul tema riforma del mercato del lavoro. Ma racconta il Corriere della Sera con Roberto Bagnoli, in realtà i giuslavoristi di Viale dell'Astronomia, dunque di Confindustria, non credevano ai loro occhi nei giorni scorsi, quando hanno letto e riletto il testo per rendersi conto che sull'articolo 18 nel capitolo di licenziamenti disciplinari era stata modificata la tipizzazione dei contratti dando maggiore discrezionalità al giudice, insomma una modifica che comportava per Confindustria un danno di gran lunga più grave di quello introdotto con la modifica ai licenziamenti per motivi economici, prevedendo anche in quel caso la possibilità che il giudice disponga il reintegro in alternativa all'indennità. In pratica, nell'ultima versione della riforma del mercato del lavoro si dava al magistrato più mani libere nel valutare la proporzionalità della sanzione all'infrazione e l'eventuale ritorno in azienda, e questo per Confindustria avrebbe creato appunto una rigidità, perché avrebbe portato e spinto molti magistrati a rendere più probabile la sanzione del reintegro rispetto a quella dell'indennizzo nel caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Questa è l'ultima delle modifiche che ha fatto arrabbiare, tanto che Emma Marcegaglia da una parte ha scritto al capo dello Stato napoletano parlando appunto di testo da correggere, e poi però c'è stata questa telefonata, la telefonata Marcegaglia-Monti, questo è il titolo invece a pagina 9 del Corriere della Sera, sulla riforma ora è disgelo, ma certo rimangono un po' di tensioni, tanto che Giannelli nella sua vignetta in prima pagina del Corriere della Sera dipinge così il rapporto tra Monti, Fornero e Marcegaglia, sono loro tre ritratti nella vignetta. Monti che sussurra al ministro Fornero: lasciamola stare, tanto ancora qualche giorno e anche lei sarà esodata. Si riferisce ovviamente al cambio imminente ai vertici di Confindustria. Certo però che anche il ministro Elsa Fornero pare, secondo Repubblica, non stia passando un buon periodo. L'ultima uscita nel weekend è stata questa: o la riforma passa oppure il governo va a casa. Una frase che racconta Roberto Mania a pagina 3 di Repubblica in un retroscena non è per nulla piaciuta a Palazzo Chigi, al Premier Monti in primo piano. Questa frase è stata considerata inopportuna a dir poco, soprattutto in questa fase di tensioni politiche interne, di nuove crescenti fibrillazioni. D'altra parte nessun ministro si è schierato con la Fornero, non Corrado Passera, che invece ieri da Luce Annunziata ha detto è possibile qualche modifica. Non il ministro Riccardi, che con evidente imbarazzo ha sostenuto di non essere in grado di dire quando il governo andrà a casa oppure no. Sta di fatto che in un momento in cui Monti ha bisogno di ricucire gli strappi, sa che il destino del governo dipende dai partiti che lo sostengono, e infatti domani rincontrerà in un vertice di maggioranza i tre leader di partito ABC, Alfano, Bersani e Casini. E proprio in questo momento è arrivata questa frase, e quindi scrive Repubblica: è calato il gelo di Palazzo Chigi sul ministro del lavoro Elsa Fornero. Monti non ha per nulla condiviso quest'ultima esternazione, cioè o passa la riforma del lavoro o il governo va a casa, del ministro del welfare. Insomma, questo è il clima per la riforma del mercato del lavoro, in un clima di tasse, l'abbiamo detto, non solo la tassa sul junk food. Uno legge il Sole 24 Ore di oggi, edizione del lunedì, dove ci sono delle proiezioni di quanto costeranno le nuove tasse, le nuove tariffe. Il titolo di prima pagina è già emblematico: 1500 euro in più, è una media ovviamente, a famiglia. Cresce ancora il conto di tasse e tariffe. Cristiano Dell'Osto e Giovanni Parente poi raccontano tutti i dettagli a pagina 3. Vengono presi come profili sia un single che guadagna sui 30.000 euro con una casa di proprietà, con 25.000 euro di risparmi investiti in titoli di Stato e obbligazioni bancarie, oppure il profilo di una famiglia con due bambini, con il marito reddito 30.000 euro e la moglie 18.000 euro, oppure il profilo di una coppia di pensionati con reddito annuo di 15.000 e 9.750 euro. Sono ovviamente delle simulazioni, ebbene per questo le famiglie italiane se ne sono già accorte, gli effetti continueranno a farsi sentire nei prossimi mesi, l'aumento delle tasse e i ritocchi tariffari che incidono sul menage domestico costeranno circa 1.500 euro in più rispetto allo scorso anno. Un aumento che è variabile tra il 20% con punte fino al 40% in più di tasse e tariffe. In bocca al lupo, come al solito, italiani. L'ultima tassa, oltre a quella del junk food, e che potrà creare disagi negli ospedali italiani oggi e domani, sappiatelo, è questa, la tassa sulle borse di studio, che ha portato di fatto i ricercatori in rivolta. Per gli ospedali italiani, racconta per esempio Flavia Amabile a pagina 6, per gli ospedali italiani non saranno due giorni tranquilli. Oggi e domani 25.000 specializzandi in medicina generale scioperano contro il governo. Non protestano per una norma ad hoc. In realtà sono però i più colpiti proprio loro da un provvedimento che riguarda tutti i dottorandi. Chiedono infatti di cancellare una norma prevista in un decreto in discussione, un disegno di legge in discussione alla Camera, un emendamento che ha solo lievemente addolcito la novità, stabilendo che si applicherà una tassa sulla tassa IRPEF su tutte le somme corrisposte a titolo di borsa di studio sopra gli 11.500 euro all'anno. Saranno infatti sottoposte a prelievo fiscale le borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato, di ricerca, perfezionamento e specializzazione erogate dalle università e ai contratti di formazione medica specialistica a queste equiparate, nonché gli assegni erogati dalla regione. Insomma, una platea molto più ampia dei giovani medici che però oggi protestano. E infatti anche sul Corriere della Sera, tassa sulle borse di studio, la rivolta degli specializzandi. Insomma, dove uno si gira c'è una tassa che spunta o spunterà presto. Poi uno va a dire monta l'antipolitica, e ti credo, verrebbe da pensare. Sta di fatto che questo sta preoccupando molto i partiti, è il tema anche che tratteremo noi dalle 8:20. Ieri gli ultimi due a tuonare in ordine di tempo contro l'antipolitica sono stati il leader del PD Bersani e il leader di SEL Vendola. Vendola ha anche attaccato Beppe Grillo, non ha fatto un nome a caso, ha attaccato proprio Beppe Grillo, così anche Bersani, perché Beppe Grillo, e lo vedremo tra poco dopo il traffico, sta facendo un tour e pare un tour di grande successo. I sondaggi lo danno come terza forza politica nazionale, alcuni sondaggi, forse sono sondaggi, quindi bisogna prenderli col beneficio di inventario, forse esagerato come risultato, ma sta di fatto, basta aspettare solo le prossime elezioni per cercare di capirlo. Bersani comunque tuona e allarme antipolitica, e così anche, questo è il titolo dell'Unità pagina 4, ma anche La Stampa pagina 8, i partiti e il governo dicono bisogna fermare l'antipolitica, e guardate anche Repubblica, voto a ottobre destabilizzante, l'antipolitica può travolgerci. Questo Bersani, mentre Vendola ha tuonato contro Beppe Grillo, definito un fenomeno populista che non ha le caratteristiche per offrire una prospettiva al nostro paese e che quindi preoccupa. E a tutto questo Beppe Grillo cosa risponde? Avanza dunque l'antipolitica, e per questo il Messaggero va a intervistare a pagina 9 Marco Revelli, che è sociologo storico vicino alla sinistra movimentista, che dice attenzione ai partiti che stanno crollando su se stessi, generando forme molto inquietanti di delegittimazione della politica. La colpa, la colpa dei partiti è che non vedono la loro totale cecità sulle questioni dei rimborsi elettorali. Il problema del finanziamento ai partiti è complesso, ma devono capire che gli elettori in un momento di crisi che li prende alla gola non fanno più sconti. E allora chi ha una concezione superiore della politica deve scendere al livello dei propri elettori, altrimenti se li ritroverà schierati con demagoghi alla Grillo. Ecco che anche Marco Revelli lo definisce un demagogo. Sta di fatto che Beppe Grillo sta spopolando, e per questo ieri ha fatto l'ennesimo tour de force di 4 o 5 piazze mobilitate nel giro di una giornata. E ieri tra l'altro ha concluso la domenica proprio nella sua Genova, e dunque il Secolo XIX, ma tutti i giornali dedicano una pagina al fenomeno Beppe Grillo, che dice se la fanno sotto dalla paura siamo già la terza forza nel paese. e tra l'altro ha criticato proprio Vendola, ha risposto a Vendola lo stesso Beppe Grillo, ora mi attacca mentre mi chiamava prima delle elezioni e gli ho dato anche una mano. Ma poi Grillo ne ha un po' per tutti, guardate anche La Stampa che dedica una pagina a questo, la dunata del capopopolo, siamo il terzo partito, con Giuseppe Salvagiulo che racconta sarà anche antipolitica, ma ieri sera a Genova, nella terz'ultima domenica prima delle elezioni, l'unica manifestazione pubblica era proprio quella del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che è arrivato in ritardo, eccolo qui, alle 15 a Forte dei Marmi, alle 17 a Carrara, alle 19 alla Spezia ed ecco alle 22 a chiudere la giornata a Genova. Genova, 300 km in camper in mezza giornata, 4.000 in tutta Italia fino al voto, piazze e non talk show, c'è anche tutta una mappa interattiva, il tour elettorale che lo porterà a fare 5.560 km in un mesetto circa prima del voto. Con Grillo che dice siamo al 7%, siamo il terzo partito. E poi su insomma ci sono anche battute, le solite battute di Beppe Grillo sui partiti, il PD, il PDL, il PD meno L, siamo pronti a governare, c'è anche questa battuta sul Parlamento, ci vediamo a Montecitorio, in Parlamento, fuori o dentro? Così Beppe Grillo, anche Repubblica dedica una pagina a questo, Grillo tenta il colpo nelle città, noi i rimborsi li rifiutiamo. Ne parleremo appunto alle 8.30. A proposito di inchieste, poi dice uno, franano i partiti. Beh, quello che si legge oggi sul Corriere della Sera, per esempio in prima pagina, non è una buona pubblicità per il governatore della Lombardia Formigoni. Pagati viaggi per Formigoni e il fratello. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano l'inchiesta sulla sanità lombarda e ci sono pubblicati tutti i verbali del fiduciario di Daccò, persona che è stata arrestata nell'inchiesta sul crack dell'ospedale San Raffaele. Sono tutti pubblicati e che cosa si evince da questi dossier? Quei viaggi pagati da Daccò per Formigoni e per il fratello, parla Giancarlo Grenci, fiduciario svizzero di Daccò, appunto arrestato nella vicenda, e dice questo Grenci: so che erano in rapporti di amicizia Daccò e Formigoni, risultano pagamenti con carte di credito di viaggi. Per dimostrare quanto dice, consegna anche l'estratto conto di una delle tante carte di credito di Daccò. Ecco qui, viaggio pagato per un biglietto a nome Roberto Formigoni e Perego, valore oltre 8.000 euro. Ma più avanti racconta anche di soggiorni, risultano pagamenti di affitti di ville da 80-90.000 euro ai Caraibi per 2 o 3 settimane, ritengo che fossero ragionevolmente destinati ad ospitare più persone. Insomma, l'accusa è viaggi pagati da Daccò, arrestato nella vicenda del crack San Raffaele, per Formigoni e anche per il fratello. Questo lo trovate a pagina 13 del Corriere della Sera. A proposito di inchieste, beh, c'è ancora un po' della Lega, soprattutto con questo titolo del giornale di prima pagina, Belsito intercettato, mi sparo in bocca. Il giornale fa un titolo di prima pagina e poi l'intera pagina 3, con l'ex tesoriere della Lega che appunto appare spaventato in un'intervista, in un'intercettazione, quando ci sono gli articoli che alzano il velo sui suoi affari. E a un certo punto che cosa dice alla solita Nadia da Grada, cioè segretaria amministrativa della Lega? Mi devi dare una mano, se no mi succede un casino, mi succede una disgrazia, mi suicido e faccio prima, mi sparo in bocca, scrivo una lettera e vaffanculo a tutti quanti. Questo ha detto in una intercettazione Belsito. Mentre è tornato in Italia La Vitola, è sbarcato questa mattina Walter La Vitola, dopo 6 mesi di latitanza è già stato arrestato, è già stato preso in custodia dalle forze dell'ordine. Oggi il faccendiere a Roma dopo 6 mesi di latitanza, titola il Corriere della Sera, ho paura della prigione, così a pagina 12, è già arrivato, è già sbarcato a Roma, è già stato arrestato. Che dire in conclusione? Trovate molto di ovviamente temi internazionali, la vicenda di Kabul, un 20 ore di offensiva dei talebani a Kabul, sono stati uccisi, la notizia di poco fa dalle agenzie, non la trovate sui giornali, uccisi tutti i talebani che hanno fatto questi attacchi multipli a Kabul. La vicenda si è conclusa solamente questa mattina, mentre cito il titolo della Gazzetta ancora oggi dedicata alla morte di Morosini, tutti per Moro, per una volta non c'è il calcio giocato visto che il calcio si è fermato in tutto il weekend, c'è anche il dramma del vigile urbano che ha messo la macchina che ha bloccato per un attimo i soccorsi al secolo XIX, qualche frase, quel ragazzo mi rimarrà per sempre sulla coscienza, il vigile dice sono corso a spostare l'auto, ora rischia il licenziamento. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, parliamo di politica e di antipolitica, se volete. Lo facciamo con Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. Buongiorno e ben ritrovato, Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto però le vorrei chiedere questo, perché la CGIA di Mestre ha identificato 23 persone che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno per la crisi che stiamo vivendo. Lei nei giorni scorsi ha accusato anche con parole shock, dicendo al Premier Monti porta sulla coscienza questi suicidi. La ripeterebbe una frase così forte? Ma vede, non è che l'ho ripetuto per strada, io ho fatto un discorso all'interno della Camera dei Deputati durante un voto di fiducia che ancora per l'ennesima volta indebitava le famiglie e costringeva le imprese a chiudere, nel mentre nulla faceva per rilanciare la crescita, per ridurre le spese pubbliche, specialmente quelle inutili e dannose, e per far pagare a chi doveva pagare. In questo contesto io ho detto che questo sistema e quindi anche questo modo di governare sta portando alla disperazione migliaia e migliaia di famiglie, imprenditori e lavoratori, ed è una fotografia che si arrabbiano con me perché faccio il fotografo, non è che ha risolto il problema. Però portare sulla coscienza i suicidi, cioè quella frase è stata così, lei li porta sulla coscienza questi suicidi? Torno a ripetere, lei non estrapoli una frase da un discorso fatto all'interno del Parlamento, non al bar di periferia, in relazione a un decreto legge in cui veniva, e voglio dire ancora ieri mi pare che per poter far fronte all'emergenza hanno individuato un ulteriore aumento di benzina invece che una riduzione di spesa pubblica. In una situazione di questo genere non v'è dubbio che chi si sta ammazzando non è che si sta ammazzando perché gli fa piacere, perché non ce la fa più. E allora io credo che tutti noi che facciamo parte dell'istituzione abbiamo il dovere di affrontare il toro per le corna, non dire non mi devi dire questo, non mi devi dire quell'altro, piuttosto non bisogna fare questo e non bisogna fare quell'altro. La riforma del mercato del lavoro, così com'è, all'Italia dei Valori non piace. Voi puntate a modifiche, che tipo di modifiche in Parlamento? Ma noi innanzitutto puntiamo alla riforma dei contratti di lavoro, ce ne stanno una quarantina e ci sembra del tutto assurdo e improponibile. In secondo luogo puntiamo al mantenimento fermo dell'articolo 18 che, come direbbe il vecchio Di Pietro, non ci azzecca assolutamente niente con la causa della situazione deficitaria sul piano economico, finanziario e industriale del nostro Paese. Semmai il nostro Paese si trova in questa condizione proprio per una ragione diversa, cioè per l'estrema... Ah, la linea telefonica. E andiamo a recuperarla. Insomma, l'articolo 18 per Di Pietro non ci azzecca niente, come ha detto in Di Pietrese. Adesso lo recuperiamo, sempre che le linee telefoniche ci assistano. La questione ovviamente sulla quale vorrei spostarmi ora, la questione della politica o dell'antipolitica, perché c'è un Beppe Grillo di cui noi parleremo tra l'altro alle 8:30 che sta spopolando nei suoi comizi, sta avendo sempre più successo, e allora di antipolitica vorremmo parlare. Allora, dell'articolo 18 l'abbiamo recuperata, Di Pietro, eccoci qua. Di Pietro, sì. Avete abbandonato. No, non l'abbiamo abbandonata. No, diceva dell'articolo 18 non ci azzecca nulla. Cioè l'articolo 18 secondo lei non andrebbe toccato minimamente. Ma voglio dire che il nostro paese è in una situazione di grande degrado morale, etico, economico, finanziario, istituzionale, è vero. Ma che questo sia colpa dell'articolo 18 non lo dico io, lo dicono tutti quanti. Se si vuole che il paese sia più credibile. Bisogna lottare contro la corruzione, contro una burocrazia asfissiante, contro la politica che non riesce a produrre fatti nell'interesse generale, ma solo i fatti nell'interesse particolare. E anche il governo Monti, mi dispiace dirlo, io sono contento che adesso abbiamo il governo Monti rispetto al governo Berlusconi, però i provvedimenti che lui sta prendendo, che questo governo sta prendendo, sono provvedimenti che nulla hanno a che fare con la crescita e soprattutto con il male principale, che è l'enorme spesa pubblica che fa perdere un sacco di quattrini al paese per gli investimenti e per il rilancio delle. A proposito di spesa pubblica, i rimborsi ai partiti, voi volete fare da una parte il referendum per cancellarli totalmente, dall'altra parte lei ha detto noi se arriva la tranche di luglio la restituiremo, che poi cosa vuol dire? Cioè, farà un assegno? No, andiamo con ordine, la ringrazio della domanda. C'è un dato di fatto, stiamo chiedendo ancora una volta un sacco di sacrifici alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. Che bisogna dare il buon esempio. Allora, a luglio c'è la quarta rata, lo ripeto ancora una volta, la quarta ed ultima rata del rimborso elettorale in relazione alle elezioni politiche del 2008 per cui siamo stati eletti in Parlamento. Ora, siccome i partiti sono anche in attivo, e sono 130-140 milioni di euro, mica una cosa niente, complessivamente, allora che senso ha ritirarla questa rata? Noi abbiamo chiesto con un provvedimento legislativo già depositato alla Camera, perché ci vuole un provvedimento di legge, ci vuole una legge, perché sì. Con una legge è stata assegnata, abbiamo chiesto che questi 140 milioni venga consegnato al governo affinché ci faccia qualcosa che serva all'emergenza, all'urgenza, per esempio gli alluvionati della Liguria, i terremotati dell'Aquila, i terremotati molisani, piuttosto che gli esodati e quant'altro. Insomma, dicono che non avere soldi, qui ce ne stanno 140 freschi li prendessero. E abbiamo fatto l'emendamento. Il problema qual è? Che hanno già deciso di non farlo, di non approvarlo questo emendamento. E allora se io ci rinuncio, sì che viene ridiviso fra gli altri partiti. Allora abbiamo deliberato, già deliberato noi dell'Italia Valori, che seduta stante, se lei viene lo vede in diretta, noi ritiriamo questi 4 milioni e li consegniamo alla Fornero, che è il ministro che ha più necessità di venire incontro alle fasce sociali, perché dice se non li ritiriamo vanno nel calderone, se li noi li prendiamo e li restituiamo. Non li facciamo uscire per niente, dopo li prendiamo lì che li lasciamo, li trasformiamo in assegno circolare al ministro Fornero, perché è quello che ne ha più bisogno. Se invece non dovessimo fare noi questa operazione, vengono ridivisi fra gli altri partiti. Ma quant'è la vostra quota? Dovrebbe essere di circa 4 milioni. 4 milioni, un bel assegno circolare di 4 milioni, poi Monti la traccia, guardi che la traccia. Cioè. Ma è lui il beneficiario. Problema è che è lui il beneficiario, è lui che deve avere il dovere di tracciarlo, soprattutto noi gli chiediamo di tracciarlo. Dove li mette, che cosa ci fa e per che cosa lo usa. Senta, si ruba di più oggi o nel 92, quando lei faceva il magistrato, Di Pietro? Non è cambiato nulla rispetto al 92 se non l'ingegnerizzazione del sistema. Nel 92 trovavamo la mazzetta sullo sciacquone del cesso, trovavamo la mazzetta dentro il puff di casa Poggiolini. Oggi si fa la consulenza, si fa l'incarico, si fa la nomina alla Italcantieri, come è stato fatto lì, che era Bersito che gli hanno fatto la nomina. Oggi cioè vengono utilizzati strumenti formalmente leciti per raggiungere fini illeciti, e soprattutto rispetto a 20 anni fa, oggi è più difficile scoprire i reati, perché nel frattempo in tutti questi anni, invece di fare leggi per combattere la criminalità, sono state fatte leggi per non far diventare più reati quelli che prima erano reati, per esempio il falso in bilancio. Non è più possibile combattere la corruzione come era possibile combattere prima, per esempio hanno ridotto gli spazi della prescrizione. Insomma, sono state fatte leggi a uso e consumo proprio. Io uso dire sempre questo, che una volta noi nell'eterna guerra tra guardie e ladri, ogni volta la guardia aveva più possibilità di raggiungere il ladro, e male che andava il ladro faceva il latitante. Oggi male che va il ladro fa il parlamentare. Bello, un bello spaccato del nostro Parlamento. Un'ultima cosa, secondo un sondaggio... Ce ne stanno oltre 150 di persone tra inquisiti da una parte e avvocati degli inquisiti dall'altra in Parlamento. Voi potete immaginare che questo Parlamento fa dei provvedimenti in materia di giustizia per far funzionare la giustizia. Questi tutti sono meno che masochisti, ma ci sono persone in Parlamento che hanno provvedimenti di cattura a carico. Un'ultima cosa è, oggi secondo un sondaggio un italiano su due non saprebbe chi votare. La stupisce questa cosa? Cos'è, antipolitica? Ma oddio, è già tanti che uno su due ha intenzione ad ancora di votare in questa situazione, perché è in dubbio. Ma il problema che io voglio far riflettere agli italiani è proprio questo: non andare a votare vuol dire permettere di andare a votare soltanto a quelli che hanno le idee ben chiare, oppure a quelli che sono costretti, indotti, e con il rischio, con questa legge elettorale, di far rimandare in Parlamento quelli che già ci sono. Quello che dobbiamo oggi impegnarci noi, diciamo così, come il paese reale, di pretendere una nuova legge elettorale e non di non andare a votare, una nuova legge elettorale in cui il cittadino possa scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa, ma possa scegliere in una legge elettorale che faccia sapere prima al cittadino qual è la coalizione, qual è il programma e qual è la leadership. Per questa idea che vogliono fare adesso, di fare una legge elettorale in cui ogni cittadino dà il voto, ma poi non sa a che cosa ci farà quello che ha ricevuto il voto, vuol dire fare in modo che questo poi lo offra il migliore offerente, un po' il vecchio mercato delle vacche. Io la ringrazio, buona giornata ovviamente. Buona giornata stato a lei, buona giornata al leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Intanto Beppe Grillo, per l'appunto, sta diventando, secondo molti, la terza forza politica del paese. Ancora oggi si leggono sui giornali demagogo, tribuno, è l'antipolitica, queste accuse. Che cos'è invece Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle e l'avanzata di Beppe Grillo? 800 24 00 24 tra poco. 24 mattino. Allora, Beppe Grillo, secondo un sondaggio SVG, il Movimento 5 Stelle, da lui fondato, è la terza forza politica del paese in questo momento, con i leader di partiti, gli ultimi Bersani e Vendola, che ieri hanno detto: attenzione, qui l'antipolitica rischia di travolgerci. Allora, che cos'è? È politica e antipolitica? L'avanzata di Beppe Grillo, ne vogliamo discutere con il capogruppo a Bologna del Movimento 5 Stelle, Massimo Bugani. Buongiorno e benvenuto, Bugani. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Quanto ha preso l'ultima volta le amministrative? 9,5%. 9,5%, beh, insomma. Con lei c'è l'onorevole Giorgio Straquadagno, buongiorno e ben ritrovato Straquadagno del Popolo della Libertà. Buongiorno a lei, agli ascoltatori e a Bugani. Allora, Straquadagno è definito oggi sui giornali capopopolo, comico, comiziante, demagogo. Lei come lo definisce, Beppe Grillo? Guardi, la prima cosa che vorrei far fuori è il termine antipolitica, perché è il termine con la quale spesso chi si asserraglia nel fortino dei partiti accusa gli altri che vengono da fuori di essere anti o populisti, come ha detto ieri Vendola. Io ho partecipato alla mia vita a movimenti come il Partito Radicale, come Forza Italia quando è nato, ho guardato con simpatia la Lega, quindi nella mia vita, come dire, sono stato tacciato tante volte di essere antipolitico dei partiti di allora. Non vorrei rifare lo stesso errore che fecero quelli. Quindi in questo onore a Beppe Grillo. Un movimento politico. A tutti gli effetti. Quando ci si candida alle elezioni e si prendono voti in maniera cospicua, come è capitato per esempio a Bugani, si entra immediatamente nel circuito politico istituzionale. Beh, questo è interessante. Bugani, voi siete perché voi rivendicate la vostra diversità dalla politica pur facendo politica, nel senso che pur facendo parte delle istituzioni, in consigli comunali, siete stati eletti, eccetera. Cosa siete voi? Un movimento, è un po' singolare questa cosa, siete un movimento politico a tutti gli effetti, come dice Straquadagno, oppure rivendicate una vostra diversità? No, ma io intanto ringrazio Straquadagno perché ha spalzato un pochino il campo in partenza da alcuni brutti nomignoli che ci vengono appioppati in maniera immotivata, quindi le dichiarazioni di Vendola, di Bersani di ieri di certo non ci fanno piacere, ma denotano forse un certo timore che avvertono questi due importantissimi politici del panorama politico italiano. Invece sentire altri, anche qui per dire, noi nel confronto diretto che abbiamo ogni giorno con i politici degli altri partiti, anche del PD ovviamente, è di grande rispetto, quindi io mi rendo conto che è più un nomignolo facilmente sfruttabile a livello mediatico, ma che poi non ha effettivi riscontri in quello che è il nostro rapporto con le forze politiche all'interno delle istituzioni, dove già da diversi anni, noi siamo dentro dall'anno scorso, dalle amministrative dell'anno scorso, sì. però siamo decisamente rispettati. Noi, venendo alla domanda, è chiaro che facciamo politica, quindi noi ci sentiamo un movimento politico ultrademocratico che punta su una grande partecipazione ai cittadini, su una trasparenza assoluta, che fa politica. Poi è chiaro che noi cerchiamo di farla con pochissimi soldi, rinunciando ai rimborsi elettorali, quindi lo viviamo molto come un servizio civile, veramente, come una cioè portate avanti alcune delle rivendicazioni che, uso questa parola non a caso, l'uomo qualunque, l'uomo della strada fa. Che sono rivendicazioni per certo verso anche giuste, cioè sì, per esempio i rimborsi elettorali voi non li prendete, no, la gente è contro i rimborsi elettorali e voi applicate questa cosa. No, ma aggiungo una cosa, giustamente adesso poteva sembrare offensivo dire l'uomo qualunque, è proprio perché siamo noi degli uomini qualunque, cioè io stesso sono un uomo qualunque. Io fino all'anno scorso facevo il fotografo e prima di diventare candidato sindaco di Bologna, perché i ragazzi di Bologna del Movimento 5 Stelle hanno deciso di puntare su di me, io non avevo mai pensato di fare politica all'interno delle istituzioni. Per me era una passione, era un hobby, seguire, ascoltare, informarmi, e poi ovviamente l'affetto, l'amore direi anche per il lavoro di Beppe Grillo trentennale mi ha portato su dei binari a fare questa iniziativa. Non avrei mai pensato di salire. Però interessante questo, onorevole Stracquadagno, io voglio ripartire da qui. Guardi, le giro un SMS che è arrivato da un ascoltatore da Montesilvano, ci dice: giovedì è stato qui Beppe Grillo a Montesilvano e chiedo questo: cos'è antipolitica? Anche se lei ha già sgombrato il campo dal fatto che non lo è, però cos'è antipolitica? Il Movimento 5 Stelle, che è un movimento partecipativo di cittadini incensurati che gestiscono, che vogliono gestire la cosa pubblica e rinunciano ai rimborsi elettorali, o i partiti che depredano le casse dello Stato dopo il famoso referendum poi disatteso? Cioè i partiti stanno... Lei non mi può porre domande che a cui ho già risposto, quindi lei ha sbagliato SMS. Mi faccia dire due cose a Bugani però. Sì. La prima, i rimborsi elettorali. I rimborsi elettorali per la prevalenza arrivano, anzi in quasi totalità arrivano ai partiti che si presentano alle elezioni regionali, politiche e europee, e questo, per quanto mi risulta, al Movimento 5 Stelle non è ancora accaduto. Quindi rifiutare qualcosa alle regionali sì, alle regionali sì. Qua correggo io. Hanno avuto eletti, in Emilia Romagna, in Piemonte, e non li rifiutano, perché non possono. È impossibile. Quindi bisogna dire le cose con il loro li mettono loro a disposizione, li usano ad altri scopi rispetto a quelli di alimentare la loro azione politica. Troveranno un altro modo di finanziarla la loro azione politica. Ecco, e noi non abbiamo avuto, per esempio, nessuno, quella trasparenza che loro dicono per sapere da dove e come si finanziano, perché è impossibile, ed è impossibile materialmente, fare politica senza avere un euro. Ci sta accusando di poca trasparenza. Perché almeno un volantino lei lo vorrà stampare, sì, almeno un tipografo lo vorrà pagare, almeno un manifesto lo dovrà appendere. Questo sì, ma lei sta dicendo che il Movimento 5 Stelle non è trasparente nel... No, dicendo che dicono una cosa ma noi non ne abbiamo la prova, cioè manifestano una intenzione nobilissima ma che va documentata. La seconda questione è questa: quando si dice o si pensa di essere la terza forza politica del paese, poi secondo me il sondaggio ha un grado di distorsione per il fatto che più del 50% delle persone non hanno risposto alla domanda, non sanno cosa votare, certo. E quindi è chiaro che capita spesso che certe forze politiche emergenti siano accreditate di un altissimo risultato e poi nel voto, ma questo mi interessa meno, perché stiamo parlando di che cos'è una forza politica. Allora, se una forza politica comunque si candida, pensa di essere o vuole portare, vuole, come giustamente tutte le forze politiche, massimizzare il proprio risultato elettorale, non basta dire noi siamo persone qualunque e come le persone qualunque faremo cose qualunque, perché questo paese ha bisogno di risposte precise su almeno tre temi, e sono quelli, per esempio, di cui parla sempre Oscar Giannino, che la segue nella trasmissione immediatamente. Cioè, come si risponde al problema di una enorme massa di debito pubblico? E non mi si dica rinunciando ai rimborsi elettorali, perché i rimborsi elettorali sono un milionesimo rispetto al debito pubblico. Cioè, in questo lei dice, fanno un po' di demagogia. Come si risponde? No, mi perdoni, no. sono una forza politica che basa le loro, la sua come dire, propaganda, la sua azione, la sua forza propulsiva, semplicemente dicendo noi siamo buoni e gli altri sono cattivi. Ecco, questo, è un po' demagogico, dice, traduco così, è un po' demagogico. Ma non mi faccio usare parole vuote, parliamo dei contenuti, perché a me del demagogo me lo danno un giorno su due, quindi sì. Non mi interessa. Sui rimborsi elettorali io sono stato il primo nel mio partito a dire che dovevamo rifiutare, chiudere con la tranche che doveva arrivare, ma non solo, ma che noi, io assieme ad altri colleghi del mio partito, abbiamo già deciso che quando arriva in commissione la legge è quella che deve istituire migliori controlli, sì. A parte che bisogna rafforzarli, perché per esempio un partito dovrebbe avere un bilancio almeno come una SRL, cioè con lo stato patrimoniale e il conto economico, e gli ascoltatori di Radio 24 in media sanno che cosa voglio dire, che non un bilancio semplicemente di cassa, entrate e uscite. E in secondo luogo si discute contemporaneamente dei controlli e delle quantità. Però, Stracquadanno, non possono essere diversi. Lei ha posto altri, un problema, ecco, interessante, che è quello anche della trasparenza dei controlli. Allora, Massimo Bugani, replichi a Stracquadanno sulla questione trasparenza di... No. Assolutamente, proprio, cioè, mi dispiace che un onorevole abbia fatto un errore così grossolano, dal fatto che non sapesse che noi eravamo in Emilia Romagna, in Piemonte, grave, ma poi che si dica che prendiamo i soldi dei rimborsi elettorali e devolviamo in altro, è una fesseria colossale, perché noi proprio in Regione Emilia Romagna, lo può provare qualsiasi gazzettino ufficiale, abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali, cioè sono rimaste nelle casse dell'Emilia Romagna 186.000 euro all'anno che ci spettavano per 5 anni. Ma sono rifiutabili? Perché sono quelli... rifiutabilissimi, e noi così abbiamo fatto. Appena eletti sono stati rifiutati, non è stato dato nessun IBAN su cui versare questi soldi, e noi non abbiamo visto un centesimo, non è che li abbiamo destinati ad altro, dove... no, perché li abbiamo lasciati all'Emilia Romagna. Credo che è invece un fatto epocale, no, ma l'ho detto io quello del ritirarli, perché guardi, nella regione Piemonte mi risulta abbiamo avuto anche Davide Bono, vostro collega del Movimento, sì, 5 Stelle, credo che lì ci sia un'altra formulazione, cioè vengono presi e si fanno, no, delle assemblee nelle quali vi viene chiesto, perché, ai movimenti. Quello sicuramente, quando parlavate con Bono, che anche Bono ha rinunciato ai rimborsi elettorali, invece, è per quanto riguarda gli stipendi dei consiglieri regionali. Agli stipendi, allora, quelli. Come gli stipendi dei consiglieri sono di 9.000-10.000 euro al mese. E quelli invece risultano non rifiutati, sì, voi ne tenete una parte, credo un paio, 2.000 per voi, 2.500 euro per i consiglieri eletti, e il resto viene sfruttato per varie azioni che decidono le assemblee a chi devolverli. Quindi assolutamente questo però è un punto fondamentale. Come dice Stracquadanno, voi date, non date le risposte, per esempio sulle questioni debito pubblico, riduzione della spesa pubblica, vi siete impegnati su questo fronte? Ma assolutamente, prima di tutto c'è una cosa da dire, che al momento a livello nazionale non ci siamo, quindi noi tutti diciamo, parliamo di questi temi con i vari consiglieri, con i vari giornalisti nelle varie interviste, ma ancora non c'è un Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche, nel senso che si stanno formando, ci si penserà per il prossimo anno, quindi ancora noi non abbiamo dei portavoce ufficiali al di là di Beppe Grillo al momento per quanto riguarda i temi nazionali, che comunque trattiamo costantemente, perché non si possono evitare argomenti di questo tipo nei comuni e nelle regioni. E quando noi parliamo di togliere i rimborsi elettorali, poi chiediamo anche di togliere i finanziamenti ai giornali, poi chiediamo di abolire le province, poi chiediamo di dimezzare il numero dei parlamentari. Però abolire le province l'hanno chiesto più o meno tutti. Però ad esempio noi siamo gli unici che non ci candidiamo, ci sono state elezioni provinciali, noi non ci candidiamo, quindi volerle abolire e poi candidarsi e prendersi i soldi dalle province è un discorso, volerle abolire e non candidarsi ed essere coerenti è un'altra cosa, ma noi non vogliamo fare i professorini che vengono qua a insegnare la politica, noi semplicemente stiamo facendo qualcosa che a livello politico nazionale è un esperimento clamoroso, è qualcosa veramente di innovativo. Io vedo già anche negli altri partiti, sia nel PDL che nel PD, che i più attenti, forse dico un'eresia, ma i più giovani, quindi vedo anche un gap generazionale, si stanno veramente interessando al nostro movimento, a come ci muoviamo, e molte cose stanno iniziando ad avvicinarsi. Ma è così, è così Straquadagno, voi vi interessate, o i partiti hanno un interesse in quello che succede Beppe Grillo, in senso di paura, di timore? Io mi interesso a tutto quello che accade nella vita politica, quindi mi interessa. No, ma lei sì, sicuramente, ma i partiti, che secondo lei che atteggiamento hanno nei confronti di... I partiti, si parla tanto di partiti, ma i partiti sono la cosa che esiste meno in Italia, cioè sono... Se c'è qualcosa che è diventato marmellata sono i partiti, perché non hanno, come dire, luoghi, nessuno, luoghi di sintesi politica che riguardino un po' tutti i partiti. Ho capito, però non so, Vendola dice Grillo è inquietante, Vendola, per esempio, ha detto Grillo mi inquieta, o Bersani ha detto attenzione, voglio dire. E si inviti Vendola e Bersani e lo chieda loro, però c'è un'attenzione, sta chiedendo a me, e quindi non mi può omologare a Vendola e Bersani. Però mi faccio dire una cosa, qui tre cose a cui non ha risposto Bugani, o meglio una a cui non ha risposto per però nulla, a 40 secondi Straquadagno. Sì, ne ho anche in meno se lei mi fa parlare. La prima, lui non ha risposto a come loro finanziano la loro attività e la loro iniziativa, e non mi dica con le sottoscrizioni, perché le manifestazioni da 300.000, le campagne elettorali, le cose le sanno tutti, quanto per prendere il 9,5% a Bologna, per essere eletti nelle regioni, chiedo scusa della mia ignoranza, ma non ho seguito a fondo quelle elezioni regionali, ci sono tante cose ma da fare. Ma lei cosa sospetta? Come le finanzieranno? No, cioè, sospetta qualcosa di losco? Non sospetto. Io a chi invoca trasparenza agli altri, avrò dove diritto di chiedere a loro. Primo. Secondo, Bugani è cascato in due gravi errori, secondo me. Il primo, ha detto: io fino alle elezioni di Bologna facevo il fotografo e adesso fa il politico. Io personalmente dico a tutti che sono giornalista e in questo momento ho un mandato di parlamentare. Sì. Due, ed è molto diverso, quindi il mio è un atteggiamento che ha una certa considerazione alla politica. Però... il suo mi è parso, no, me li deve dare 40 La seconda obiezione è che quando si dice siamo la terza forza politica del paese, come ha detto Grillo, bisogna avere una risposta, non si può dire per adesso c'è perfetto, solo Grillo, si fermi qui vi reinvito, ve lo giuro, ve lo prometto, vi reinvito, magari non domani, ma vi reinvito e rispondiamo a queste domande. A domani.